Attenzione canale 10. Che sono lo sportivo da venire in fine al parcentro della... Prova, Cicco 10. Cicco canale 10, prova. Hola? Cicco 10? Chi è avanti? Cicco 10? Buonasera. Mi stavo chiudendo perché ero dall'altra domanda, però c'è troppo caldo, attacco, cos'è, 9x3, così si chiama, 8x9, ciao Natalia, ben sentito. E Bucciureggia la cominci lui, sempre il risultato non cambia, sempre 27. 3 alla terza, tutto 9x3, 3x9, 3 alla terza, avete solo dei gol. Sì, avvero. E io pure ero in ascolto. Assenti, ho fatto un pezzo di filo e stavo ascoltando questo pezzo di filo. Ah, in 40 o in 20? In 40. Ce l'ho io poco fa in 40, metto un attimino, stanno facendo delle prove per dai menu di un apparato, perché questo c'è un po' di difficoltà, però 5 minuti, sta guardando se c'era qualche cosa diplomativo, perché sto seguendo dei diplomi e ne sto facendo tanto, me ne hanno mandato un pochettino di questi diplomi, ne avrò, ti è presente, di QSL ne ho quasi 300, 260 e spiccioli, di QSL solo per i diplomi, poi ci sono quelli che mi hanno dato già il diploma finito, e già mi sto divertendo, dai. Che avanti? Per vedere se mi sentirete forte e chiaro, solo la prova subito. Sì, chi sei qua? Roberto e Natalino, poi c'è. Cioè, ti sento un po' disturbato, riprova un passaggio. Se non ho capito male, hai detto Salvatore, confermi? Tu, riprendi tu Natalino, hai sentito? Ma era incomprensibile. Basso l'ho sentito. Ah, cioè avete parlato in due, avanti di nuovo l'amico, confermi il nome Salvatore? Sì, ancora disturbato. Ti sento un pochettino strana, la modulazione non è, diciamo, adesso ti ho capito, però non è perfettamente nitida, diciamo, dai. Chi sei? Comunque ti ripeto, il mio nome è Roberto e dall'altra parte c'è anche Natalino. Avanti l'amico, mi dici il tuo nome, se lo vuoi dire. Forse adesso mi senti meglio, ricopiato. Sembri leggermente saturo, ti stai aiutando con qualcosa? Assolutamente, soltanto l'antenna in macchina, invece più dritta lievemente, abbastanza spiegata in basso. Ti sembra un po' che leggermente strappato, e controllati le stazionarie che non sei fuori di rosso. In che zona sei? Il segnale è buono, sei quasi 9 più 30 qua, però io te vedete sono zona stadio, però ti sento leggermente saturo, tipo quando c'hai delle stazionarie alte, oppure se c'hai qualcosa attaccato che ti fa qualche rientro. Di nuovo a te, mi dici il nome per cortesia. Sì, Tony. Ok, in che zona ti trovi adesso? Coppia via Roma. Non ho capito, via? Via Roma, coppia. Ah, ho capito, ma sei fermo in macchina? No, purtroppo ti capisco, sì, però la modulazione non è perfettamente comprensibile. E ti rilancio a Natalino, vediamo se ti ha ascoltato. Natalino, avanti per l'amico Tony. È negativo il passaggio dell'amico. Vabbè, come dicevo io, probabilmente c'ha l'antenna un pochettino, non è perfettamente accordata sull'apparato. Che radio hai qui in macchina? La 48 o qualcosa di simile? No, lo strumento è rumeno, lo strumento è rumeno ed è TTI, però ci deve essere qualcosa, infatti da qualche tempo a questa parte su antenna da controllare. Ah, forse tu, noi ci siamo già sentiti tempo fa, quando mi hai detto apparato rumeno, ho capito, ci avevamo già parlato tempo fa. Questo inverno mi sembra dovevi sistemarti un po' la stazione, che eri rientrato qua dalle nostre parti, confermi? Sì, è vero, confermo, con te riesco a sentirmi bene, anche bene. Ma una domanda, il microfono che stai utilizzando è un microfono amplificato con batteria o normale? Diciamo, questo passaggio è andato un po' meglio rispetto a prima, non è perfettamente, magari ce l'hai troppo vicino alla bocca, non lo so, forse lo stai saturando, a che distanza sei dalla bocca? Così è perfetto, va benissimo. Aspetta, c'era qualcuno che chiamava, avanti, chi vuole entrare su 10? Vabbè, o forse la propaganda. Natalino, l'hai sentito adesso, Atuni? No, non stavo seguendo perché mi ero spostato, Roberto. Ok, Tony va benissimo, probabilmente era un problema troppo vicino alla bocca, per quello Mari cercava di strappare, probabilmente era troppo, l'intensità della voce era troppo forte e saturava lo stadio di preamplificazione della radio. Ok, di nuovo a te, Tony, come mi ascolti? Sicuramente siamo molto vicini, se ti ascolterai la bomba. Sì, siamo vicini ragazzi, no, tu mi porti. E Natalino rispetto a me nella parte bassa della città, verso Corso, cos'è, come si chiama? Corso Trinità, quelle zone lì, è un po' sacrificato, se c'è quell'antennina lì, non so, se Mario non è perfettamente accordata, Mario non riesce a dare tutto a piena potenza alla radio. Di nuovo, Natalino, l'ha ascoltata Tony? No, negativo, non lo ascolto io. È strano però, qualche watt dovrebbe erogarla quella radio, qualche watt c'è, cioè, almeno 3-4 watt dovrebbe darli via. Tony, hai sentito? Natalino non sente, muovermi a fare Natalino. Ma tu lo senti a Natalino? Trovato assieme l'altra volta, devo segnarmi i nomi, essendo sempre in movimento. No, dico, in questo passaggio, quando ti ha detto non ti sento, tu lo senti a lui? Non lo copio perfettamente. Vabbè, non hai problemi, sono dalla tua parte, dai, probabilmente la radio non sta dando la piena potenza, magari c'è il rosso troppo alto, va bene. Ok, considerando che sei in via Roma, sei molto basso, dovresti arrivare qua molto molto più alto, se sei all'inizio di via Roma. Ma anche qua dovrebbe arrivare a bomba. E lo sei d'accordo con me? Io rimango ancora qualche minuto che poi tra poco devo uscire. Ok, e vediamo Tony se ci sei ancora, avanti. Comunque dice sta utilizzando un baracchino rumeno, vi siete sentiti altre volte Natali, e io quest'inverno probabilmente l'ho sentito, adesso non mi ricordo esattamente la giornata, però si parlava quest'inverno perché c'era verso febbraio, massimo marzo, non più tardi, e basta. Ok, e vediamo se Tony riesce a trovare una posizione migliore, se no Natali riprendi tu. Va bene, io mi devo spostare, Robè, dai, ci sentiamo alle prossime, che devo far cosa, c'ho il Covid e non posso uscire di casa. E vabbè, Natale, purtroppo quasi tutti l'hanno passato, dai, fammi bene, dai, cerca di riservarti, prendi le solite medicine, quando c'è un'influenza vedrai che si risolverà tutta la situazione, ok? Tony, adesso ti ascolto 9:40, probabilmente sei ancora più favorevole. Natale non sta andando via, non so se l'hai sentito, comunque lo salutiamo. Ciao Natale, alle prossime, anch'io rimango qualche minuto e poi vado via anch'io. Di nuovo Tony, e te il mic. Natalino, a presto, un saluto da Tony. Però anche adesso la voce era leggermente strappata. Sei attento a non bruciare i finali, perché se c'è il rosso troppo alto fai del danno. Eccomi da Tony, Roberto, tu mi senti bene, dai, adesso mi dovresti sentire. A Puglia, 9:40, no, ma c'è andata forte anche prima, però la modulazione, ti ripeto, non è al 100%, cioè sembra che ci sia qualcosa che la blocchi, come quando c'è le stazionarie un po' troppo alte, per cui, e dove sei arrivato? In che zona sei? In questo momento sono esattamente di fronte a Grazia dell'Edda. Quindi si è aumentato il segnale, considerando che sia Grazia dell'Edda, può fare più vicino a me, copia a copia quella che c'è in via Roma Alto, stai dicendo, vicino a quello dei tappeti. Sì, confermo, sì. Adesso hai migliorato di segnale stranamente, pur essendo in aria da me 400 metri. Allora, una prova radio, intanto fra un po' lo cambierò e metterò qualcosa di buono, sto aspettando la turbo, quella più alta. Ma per mettere in macchina? Sì, lo tengo in macchina io, sì. Sì, vabbè, non c'è bisogno di mettere antenne così troppo alte, sono più che altro fastidi, magari guadagni qualcosa come distribuzione di segnale, perché c'è un'ottima resa, però cacchio, è troppo grande. Ma la Turbo 2001, quella grande? La male è aspetto alta, e oltre a quello bisognerebbe metterla fissa. La Turbo 2001 sono 2,5 metri di antenna. Io sto aspettando la Turbo 2000, sì, 2001 dove messo 2000, adesso ce l'ho di un metro e qualcosa, siamo quasi a 2 metri, su 1,60, 1,70, su calamita molto grossa. Ma tu sei magnetica adesso, su come antenna magnetica? Sempre magnetiche, ne ho varie, sì. Molte volte su certi tipi di macchine devi trovare la posizione, dove c'è, il centro tetto o di fianco, dove deve essere? Ce l'ho in questo momento, no, ce l'ho posteriormente sul tetto dove c'è l'antenna GPS, eccetera. Ma l'ho sempre tenuta lì, e che l'ho piegata un po' per il garage, volevo vedere come prendeva. Se l'ha raddrizzata di sicuro ho un'eccezione maggiore. Allora quello è importante, lo sai quanto influisce il rosso quando l'antenna è piegata? Tantissimo, ti salgono stazionari a 1000. Il problema di quelle antenne è sempre un sottopasso, diciamo, quelli dei supermercati, dei garage, tu a quel punto ci sono anche antenne di dimensioni più favorevoli, caricate, vanno, non dico benissimo come quella lì, però ti eviti dei problemi, perché se non hai, ti puoi far danno anche sulla capota, anche se è magnetica, però la superficie si tende a deformarti se prendi un colpo o qualcosa, perché è abbastanza pesante. Ok, di nuovo a te, Tony. Ok, Roby, allora ti lascio tranquillo, grazie per la consulenza e il consiglio, la prova, ti copio comunque forte e chiaro, e niente, alla prossima, e ti lascio andare tranquillo, passo e chiudo, un abbraccione, sono ospita ancora. Ti ringrazio, dai, ti devo fare cosa stasera, dai, ti saluto, sperando di rincontrarci presto qua sul canale 10, normalmente si sta qua sul canale 10, anche se prevalentemente lavoro su altre bande. Ok, vabbè, ogni tanto accendo qua il 27 per fare qualche contatto e qualche questo con qualche amico carissimo che si trova spesso. Dai, ti saluto, ti auguro un buon proseguo di serata e buon tutto per domani. Ciao ciao. A te un abbraccio, chiudo. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda, campo. Invece mi sono trovato male. Perché non riesco a battere io? No, No, guarda, qui è raro che manchi, perché ripeto, siamo la parte più bassa di Sassari, quindi è raro. Però se fanno qualche lavoro che la interrompono, allora manca, sì. Facciamo cambiare le vostre condotte. Se non mette l'anima in pace, cambia tutte le condotte, quelle che sono frati. E se no siamo, dobbiamo puntare a capo, non è che cambia qualcosa. È giustissimo. Ma va a prendere la vaffanculo. Si è incazzata la vita. Lì non entra, capito? Fra così. Queste condotte devono cambiare, non te stanno lì a sapurata. Ma funziona così. E come la gomma da macchina, buchi oggi, buchi domani, non te sta sapurata, la cambi e via. Risolto il problema. Io qua avrò un Sassari. Come sai, appena la pressione parte da un'altra parte. Ma infatti ci mettono lo squerci. Di notte specialmente che aumenta la pressione. Credo che loro di notte la abbassino un po' la pressione proprio per evitare questi problemi, sono guai. Sono quanti anni sono? Quanti anni hanno queste condotte? Tanti altri li paghiamo noi, alla fine. Quanto 10 euro in più in bolletta, 20 euro in più, 20 euro in più la famiglia, poi se ne ricavano i soldi. Cosa ne dici tu? Quindi da poco hanno preso una multa, mi sembra, di 5 milioni di euro a Banoa. Adesso ce la spalmeranno sulle nostre bollette, sicuramente. E poi ci offre acqua gialla. Basta, su moto paghi di acqua. Ma no, ti devo fastidia, dovevi guardare le bollette, però non molto, dai, non molto. Penso sui 100 euro, boh. Ogni quanto arriva, boh, ma come veramente. Adesso sto aspettando la tassa, invece Mondezza non è arrivata ancora. E ma Mondezza non è arrivata, ma mi accompagna, mi sa. Sì, dove arriva? Ma di agosto. Arriverà la sorpresina, dai. Si è aumentata, boh. Qualcuno dice che non è aumentata, io sapevo di sì. Boh, questo non lo so. Si è aumentata ormai. Si è aumentata. Dai, che abbiamo aumentato. Dopo ci fanno pagare l'aria che respiriamo, che poi non è manco buona. E vai, cocco, ma ne fatti tornare il resto. Mimì, Natalino. Vabbè, Natalino, io ho fatto la foto alla tua antenna, troppo lontano dal Ponte Rosello, col cellulare non rende bene, non si vede bene, se no te l'avrei mandato. Cosa volevo dire? Ti ricordi quando è iniziata la raccolta differenziata? Qua pagheremo di meno? Sì, domani. Avanti, Natalino. Cappa, io nel frattempo mi ho fatto un pezzo di filo a L e sta andando alla grande. Hai fatto un'altra antenna? Ehi, un'antenna a L ho fatto e funziona benissimo. Mi guarda. Forse qualcuno chiamava te, però io mi trovo qua in provincia di Torino, sono ancora. Assenti? Su che frequenza? 40. Non ti posso seguire lì. E vabbè, con il ricevitore ricevo tutto, neanche io ti posso seguire, ti posso ascoltare. Si può fare, sì. Hai fatto la cosa L, ti ho visto sotto il ponte o la cosa L. Ma cosa hai visto tu, cosa hai visto? C'ho il Covid, c'ho maledizione. Torra, l'ho preso solo questa volta. Allora ricordavo male io. No, l'ho preso solo questa volta, mi ha contagiato mia moglie. Anche lì, tutti e due pizzicati, cioè. 7 giorni chiusi dobbiamo stare. Vabbè, occhio al cane. Come? Ah, contagiare il cane. Sì, pure Lugani contagiati. Guida bello vispo, mi ha te l'immagine. Per loro non è cambiato niente. E infatti, dove andare di sci già esci, puzzinoso, non ha bisogno di green pass, no? Oh, che fiera, aspetta, ancora non è arrivato l'inverno, mamma mia. Se me ne sto temendo, te lo sto dicendo, l'altra sera eravamo giù prendendoci il fresco e sicuramente già contagiato una bassona. Sta contagiato, a chi subito è giunta la prima, domani ha detto umano, mi già, e siccome ho fatto anche quello anti-influenzale, il vaccino, ho fatto il tampone a mia moglie, negativa. Io lo stesso, però ci avevamo questa febbricciatola sempre. Davo il 3D positiva e io lo stesso. Se non vuole mollare questa porcheria, prima d'estate almeno non so, finiva tutto, adesso invece sta continuando anche d'estate. Avanti Luca. Ragazzi, un casino. Io ce l'ho passato, meno male. C'è un bel niente comunque, malata di Covid, c'è un bel. Lo so, mi lo faccio. Guarda, siamo dovuti andare a Imbarcadero a Alghero, Porto Conte. La ristorazione l'hanno eliminata perché erano tutti impestati di. Hanno fatto solo discoteca, ma niente ristorazione, niente da mangiare là. Ma riprendete che mangio questa pizza, insomma la mangio fredda. E siamo tutti impiccati, tu vieni usassari di niente Grugovic. Altro che noi, è aggressiva molto questa cosa. È un bel contagioso, non è pericoloso per chi è vaccinato, però ne sta contagiando a bizzeffe. Lo so, qualche collega di Alghero, stesso, lui e la moglie positivi lo stesso, sono mancati una decina di giorni, adesso sono rientrati, però se ne sentono un bel. Domani volevo andare a vedere, fare un paio di foto ai candelieri piccolini, No, Vanda, non ti fidare che c'è assembramento, non c'è andare. Ci vuole lo zoom da lontano. Se ti serve una macchina fotografica con lo zoom, te la posso dare io. Te la calo dalla finestra e te la usi. C'ha un 70-300, va bene, ti basta. No, io ho un 70-210, poi da dove c'è? Mia sorella ne ha uno che lo usa per andare a caccia, quando va a fare foto alle aquile, roba così, grifoni. Non so quanto sia, va, una bella bestia, un bazooka sembra. E anche il mio, un 70-300, se qua, se lo sporgo fuori dalla finestra, leggo le targhe delle macchine della piazzetta di fronte. No, questo è molto, molto più potente, cazzo. Allora, non so se arriva quasi a 1000, 700, 800, 1000. Ha pagato 6 volte la macchina fotografica, in base. Ehi, anche il mio costa. La mia è una Canon, una bella macchina, c'ho anche il grand'angolo, vedi? La distanza ravvicinata, ho fatto tutta la parete di quel di quell'albergo, e c'è lì, c'era un albergo là che c'è quel disegno là vicino, guarda, la chiesa tutta la bracciata a Giubileo, è una bella quel grand'angolo. Guarda, il vecchio Turritana, come si chiama? Vai Turritana. Sì, anche mia sorella c'ha la Canon. No, io ho una vecchia Minolta, una X 5000 mi sembra, come macchina. Sì, ho capito. La mia è una Canon e non la sto usando, se ne sta ridendo lì nella borsa, ci saranno più di 1000 euro di valore lì, tra grand'angolo, obiettivo normale, il teleobiettivo, che ve ne è poco di ero. Ne ho anche una rullino ancora, sempre della Minolta. Figurati. Vabbè, nuova ancora, nuova, un peccato di macchine. Quello è un cimilio. Era già un po' elettronica, già l'esposimetro era già elettronico, non era di quelli che vedevi la lancetta dentro, era già tutto in digitale. Anche lì, vabbè, gli obiettivi già li posso sempre utilizzare, quelli adattatori. Infatti. Era già autofocus, anche lì c'avevo un 70-210, era tipo tutto caccia, là. E poi l'obiettivo 50 mm, l'originale. Infatti, la mia è un 600 focus, quindi è una delle ultime, quella lì, la Rulino Ghetti, c'era già autofocus. Sì, è che quando non li usi si rovina tutto, perché tutto il grasso che c'è all'interno dell'ingranaggio, no, si asciuga. E poi quando vai a mettere a fuoco, infatti ci vogliono tutti smontati, puliti, da chi se ne intende, là, revisionati, tolto tutto il grasso vecchio e rimesso il nuovo. Però, va, ormai facciamo tutto con quelle compatte, con quelle mirror. Lì mio figlio si è preso una Sony, fa delle foto allucinanti, fa anche in macro, da vicino, fa veramente, e anche le riprese, fa belle riprese in alta definizione, insomma, in 3D. Ormai fai tutto con questi giocattolini, anche con i cellulari. E ce l'ho una io che l'avevo regalata a mia moglie, di quei giocattolini lì, ed è bella, funziona benissimo. Ieri ho il cellulare, ho fatto la foto da sopra al ponte, no? Ho fatto anche la foto a casa tua. La Fontana del Rosello sembra di giorno, con il cellulare, figurati. Vabbè, c'è un sensore da 108 megapixel quel telefono. Mia moglie l'ha fatto uguale con un altro telefono, un Redmi, sembra 9T, cos'è? Ma neanche a paragone, sembrava tutta sgranata. Beh, alta è l'antenna. Dal ponte si vede, è leggermente piegata verso sinistra, ma magari il vento che ha fatto magari è rimasta in quel senso lì. Se fa il vento un'altra parte, poi magari si piega dall'altra. Va? Infatti. Io l'ho vista lo stesso passando nel ponte, cazzo, giù un po' ghiaccia. No, che si vede anche la bobina. Ripeto, era già troppo buio, il bagliore che c'è dietro me l'ha un po' bruciata, però si vede che c'è l'antenna alta. Infatti, io l'ho vista di giorno passando nel ponte, cazzo, ma chi c'è l'antenna mia, giudizio? No, ottimo lavoro. Vabbè, buona questa pizza. Qui c'è gente sotto, c'è. Sarà propagazione, sarà fra, è uso che ti dica. Sentivo tipo portantine piccole, segnale zero, però mi calmavano il QRM. Oh signor, almeno c'ho anche l'antenna per ricevere, capito? In quel palo ce ne sono già tre antenne, e poi qua c'è... Qua in basso è quell'antenna per ricevere, e riceve benissimo. E io mi ricordo che avevo fatto il dipolo V invertita, però non mi ricordo quanti gradi fossero, su 45 metri, ma era una bomba quell'antenna. Cazzo, due mezzi di virus, arrivavano segnali a 9.30, 9.50. Lo so, uno o due ne ho fatto di qui di pure. Mi ha fatto le misure, cosa si chiama, uno di Alghero, un CBD, non CB, è un radioamatore di Alghero, quindi ho preso una scatoletta, ho fatto l'impianto, eravamo appesi al palo della luce dell'Ede, no, l'avevo portata su con una canna e avevo fatto un aggancio tipo a un cino, no? E quindi l'ho portata su e l'ho agganciata al tubo su, al vuoto del tubo, e poi ho calato i due radiali, là. E io non lo posso mettere a V invertita perché mi hanno legato la puleggia col coso, con la corda. Adesso devo scogitare qualcosa per liberare la puleggia, così almeno me la uso. Se riesco a mettere un bel dipolo lì sopra, guai. Devi mettere una carrucolina su alla base della bobina, sotto la bobina, dell'antenna. Ehi, c'è la carrucola e la corda, solo che me l'hanno legata, un pirla, vabbè, già gli do la corda per legare dove deve legare e liberarmi la corda, così almeno mi uso la carrucola. Eh sì, ce l'hai, però non la puoi utilizzare, un peccato, piano piano, Luca! C'ha la bocca piena quel Luca. Insomma, di pizza deve essere, una gigante si sta mangiando. E allora, minimo, è un po' comane quel Luca Puglioni. Comunque sintomi ne hai adesso? No, non ne hai sintomi. No, questa febbre ci avevo a 37 e qualcosa, e boh, non ne ho sintomi. No. E infatti non si sente niente, dalla voce sembra tranquillo. Infatti, è così mia moglie, ma abbiamo fatto tre vaccini. Se non sei vaccinato è brutto, che ti prende male. Non so, io ne ho fatto due, il terzo non l'ho saltato perché avevo preso il Covid anch'io. E io il fatto un salto, perché ho preso il Covid adesso. E cosa vuoi che ti dica? Adesso sabato finisce mia moglie, gli faccio il tampone, se è negativa la mando in farmacia, così confermano. E domenica finisco io, ci vado lunedì a fare il tampone. Lo fai in farmacia o all'Usca, chi lo fa? In farmacia vai, poi lo mandi alla dottoressa o al dottore tuo e così ti rilascia il Green Pass. Quindi c'è ancora il tuo Green Pass in giro? È uno che ha avuto il Covid deve rinnovarlo, capito, praticamente. Poi sai che il mio scadeva, forse a luglio scadeva il mio. Oh signore, adesso ce l'ho 36 e qualcosa la febbre, quindi non è manco febbre, manco la tachipirina prendo, perché la dottoressa mi ha detto se superi 38 prendi la tachipirina, se no non è biliare. Basta, 38 no, guarda, fino a 38 non è febbre. Dei miei amici sono venuti, la compagna del mio amico, la moglie, con due figli alla Valghiera a trovare, poi giovedì se ne sono andati tutti e tre con la febbre a 40, tutti e tre positivi. Sì, me lo posso immaginare, poverino. Ma se nel giro di tre giorni tutti e tre infestati, Perché hanno tre giorni di incubazione questa cosa qui. Io pure ho il tampone negativo, il primo che ho fatto, eppure avevo la febbre. Sì, infatti, dopo che si è convinto di aver avuto un contatto con qualcuno positivo, conviene, è inutile farlo subito perché tanto non sei positivo. Dopo tre giorni conviene farlo e ti dice la verità. E infatti, poi se risulti positivo vai in farmacia e lo confermi, no? Così sanno che sei positivo e stai sette giorni chiuso. Quando diventi negativo vai e lo rifai in farmacia, no? C'è molta gente invece che si tiene di nascosto, che poi conviene farlo, così almeno ti rilasciano il Green Pass, capito? Di avvenuta guarigione. Infatti, se no non puoi entrare negli uffici, perché il Green Pass è vecchio, non vale, se te lo chiedono. Ma lì c'è il Covid di dirgli. Molti hanno vergogna, non lo so, di dirlo in giro. Ma la bagogna di Maria, chi qui fa due se ti sei ammalato? Lo dite, mi contagiato, no? Mica colpa tua se te l'hai preso. Ah, io come... vabbè, a me mi ha contagiato mia moglie. Però appena mi sono accorto che c'era qualche sito, subito sono andato in farmacia e ho fatto partire la cura subito e poi la guarigione, che è quella che mi serviva per il Green Pass. Perché se no manco al lavoro puoi rientrare, hai capito cos'è il discorso? No, no, lui no. Luca? Avendo, Lugariello. Vabbè, non stai andando più nessuno? Così sembra. Io ho sentito a voi, ho alzato il volume perché stavo ascoltando da un'altra parte. Ho sentito a voi e sono voluto entrare, capito? Neanche io, allora, siccome ero negli altri canali, poi l'ho riportato sul 10 e stavo accordando per lasciarlo, diciamo, pronto sul 10 e mi ha risposto Lucariello. Chiara gara. Con cosa stai uscendo adesso? Con il melegazzo. Esce bene, però dai. Sì. Qua trovate, chi mi sente mi sente, chi non mi sente si mette l'amplifo. Lui, scusa, da ti sentono, l'antenna sopra da ti sentono, anche con 4 watt. E a voglia. Alghero come arrivi? Come? Alghero arrivi meglio? E da tutte le parti arrivo meglio. E sento meglio. Per esempio a Chiodo Arrugginito non lo sentivo per nulla. L'altra sera stavamo parlando di brutto. Qui arriva, non molto, però lo sento. Segnale di uno mi sembra quando aggancia uno e mezzo, quando usava quegli 80 watt che ha. Ma noi ce ne siamo passati in FM, abbiamo parlato alla grande. Ti arrivava più forte in FM? A voglia, tu gli dici passare in FM e vedrai come ti arriva di brutto. Ma pure qua non cambia nulla, se lo sento basso in AM lo sento basso anche in FM, non so da cosa dipenda. Ma mi sembra strano, dovrebbe arrivarti più forte in FM. non lo so, anche questo apparecchio, per esempio, se io commuto da MFM, i watt sono sempre quelli, cioè non è che esce più forte. Ma io l'ho ricevuto 9.30 qua che l'ho arrivato in FM. Carlo mi stava sfacciando tutto, più di 9.60 arrivava, non riuscivo manco a attenuarlo. Cazzo, 9.30, a me neanche uno e mezzo, guardi, roba da matti. Non lo so, magari questo apparecchio vuole tutto tarato. Sì, può anche essere. Oppure magari l'FM si propaga meglio della M, magari per quello, perché i watt sono gli stessi. Io quando commuto, per esempio, sono 4 watt, 4 e mezzo. Se metto una in FM sono sempre 4 e mezzo. Certo. Il mio non lo so cosa fa, so solo che mi ricevono e ricevo più forse io. Adesso provo, ma adesso sono 4 watt e mezzo spaccati. Non lo so, ma è stato tarato così. È che qui c'ha picchi positivi, invece in FM sono inchiodati, da. E anche il mio, i picchi non ci sono in FM. Infatti. A voglia qua. E infatti. Ma Luca non entra, io da lì vado via. Me vado a prendere un po' di fresco. E qui non sono climatizzato, voi ce l'hai detto, sono climatizzato. Faccia, lei che lo può fare, fino a che vede un caso, mamma mia, non si buca. Vabbè dai, ci sentiamo alle prossime, Franco. Ciao Luca, se stai ascoltando, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime. Anch'io me ne faccio in quel retira. Ehi capa, ciao Luca, se ci sei, se no alla prossima. Ciao Natalino, buona guarigione, buon tutto, e alle prossimine, buonanotte. Altrettanto Franco, ciao, le prossime.